chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Oggi non sono felice. Non sei felice? Insomma, no, perché? Povera. Come cosa fai succede? Succede che sta finendo l'estate. Sta finendo l'estate, sta finendo anche si ritorna a scuola. Questa nostra esperienza qui, insomma, l'ultima puntata. No, non è finita. Un attimo, è nell'etere sospesa, ma poi si riprenderà la grande. Bene. No, però è vero, finisce l'estate. Io non c'ho mica voglia di ricominciare a lavorare. Ma dai. Allora, senti, abbiamo un argomento che a me piace moltissimo, lo so. Che è sciamanesimo e animali. Fra l'altro, tu mi hai sempre detto che io sono una sciamana. Tu sei una sciamana in fondo al cuore. Facciamo spiegare dalla nostra esperta piuttosto, perché abbiamo in linea Morena Luciani, che è un'antropologa ed esperta di sciamanesimo femminile. Fantastico. Io le voglio fare qualche domanda sulla correlazione tra questo e gli animali. Morena, sei in linea? Eccoci qua. Ciao Morena, ma senti, intanto io anch'io adoro molto questo argomento, mi appassiona tanto, ma come si fa a riconoscere una persona che è potenzialmente sciamana? No. Accidenti! Qua andiamo veramente... Cioè, non devo partire da questa domanda. Prego. La bellezza dello sciamanesimo è in realtà potenzialmente qualsiasi persona può esserlo, poi chiaramente da lì a diventare magari persone che curano, che si prendono cura di certe cose in ambiti particolari, allora chiaramente bisogna fare anche un training. Perché essere sciamani significa avere l'attitudine a prendersi cura del prossimo, chiunque esso sia, animale, persona, piante. Beh, anche, certo. Lo fai con dei mezzi particolari. Sì, esatto, con soprattutto imparare scusami, a usare la mente. Guarda, qui mi devi aiutare, perché io qui di fronte a Rosita che fa il segno di fumare cilum, canne e cose del genere. Allora facciamo capire per favore che lo sciamanesimo non necessariamente... No, Morena, allora io ho fatto una battuta perché mi piace giocare e prendere in giro Angelo. Però io sono una di quelle che crede invece che non c'è assolutamente bisogno di questo tipo di cose. Ce lo confermi? Perché ogni volta che parli di sciamanesimo Rosita si preoccupa. No, entrate in un territorio molto delicato. Appunto. Vabbè, perché non ce n'è bisogno, però fa parte comunque anche di una... storicamente è successo anche quello, storicamente, certo, però certo, non è necessario, certo, però non è necessario, con l'intento che viene, no, non è necessario, comunque non viene utilizzato con l'intento di oggi. Sono d'accordissimo con te, però purtroppo ci sono poi fazioni di, per quanto mi riguarda, persone annoiate, solitamente dalla high class, che sentono parlare di correnti e vogliono fare l'esperienza per parlare con i santi e le madonne, e poi dopo però tornano a essere i poveracci di prima. Ti parlo di spessore veramente emotivo. Capisci quello che vuol dire? Allora, a me questo fa enormemente arrabbiare. Questo a me fa veramente enormemente arrabbiare. Per quanto riguarda invece quello di cui si stava parlando prima, lo sciamanesimo è una cosa che a me piace da morire, ci credo tantissimo e credo che sia veramente invece una pratica molto bella e molto sana. Sono d'accordissimo con voi. A parte crederci, no, cioè fa parte proprio della storia, no? Dell'uomo, dell'umanità. Certo. Però io ho chiamato Morena, sai perché? Perché c'è stato un passaggio negli anni dai metodi basati sulla dominanza, no? Nell'addestramento del cane, cioè devi sottomettere il cane, certo, eccetera. E normalmente i campi di addestramento erano frequentati prevalentemente da uomini. Poi c'è stato un passaggio ai metodi gentili e poi ancora ad un approccio empatico. Sono comparse le donne. Ma c'è stata un'inversione di tendenza potente, certo. Cioè da avere la maggior parte degli uomini sui campi di addestramento di un certo stampo frequentati da poche donne, nel momento in cui si è passati anche soltanto ai metodi gentili, l'80% dei frequentatori di questi corsi erano donne. Certo. E allora la domanda che io comincio a fare a Morena è proprio questo, cioè alla donna anche, non so, antropologicamente associata gentilezza, empatia, cioè qual è la relazione? Guarda, tra queste cose? Non mi stupisce per niente quello che dici, perché dimostra che quando le donne possono portare un contributo alla società, che quindi sia connesso con questa attitudine alla cura, all'attenzione alla relazione di cui anche abbiamo così iniziato a parlare, possiamo migliorare la nostra vita di esseri umani e di tutti gli esseri della terra. Quindi tu stai portando alla luce una cosa importantissima, cioè che i modelli culturali gerarchici e dominatori non sono innati e nemmeno universali, vedi, come ci hanno insegnato, certo, fino ad ora. Certo. E quindi esistono proprio delle culture orientate alla collaborazione, alla condivisione equa delle risorse, culture, come dire, in cui gli esseri viventi non sono pensati secondo una scala di valore che va dal più importante al meno importante, e sono delle società in cui non esiste la violenza, soprattutto tra l'altro quella sulle donne, che sembra tanto comune. Vedi, certo, qui, quindi non è che, cioè, per rispondere guerra, a quelli, dice, ma tanto il mondo è così, no, cioè, è una, no, ma io ti dico così, anche nell'osservazione dei primati, gli uomini osservavano sempre, esatto, rapporti gerarchici, aggressività, eccetera, nel momento in cui c'è stata, osservavano i babbuini, ma ti dico, era proprio una loro tendenza. Nel momento in cui sono intervenute Diane Fosse, Jane Goodall, esatto, loro hanno letto, esatto, invece delle altre cose. Quindi il, esatto, punto, il contributo delle donne, infatti, ha migliorato moltissimo la visione della storia. Per quello le culture, cioè per quello gli uomini continuano a tenerci a noi a freno, basta, perché se ci lasciate briglia libera, cioè, il mondo migliorerebbe, secondo me. Ma, una cosa che dico, ma è vero, sembra una provocazione perché siamo donne noi, però adesso, a parte le battute, è vero. Difatti Angelo è uno dei pochi uomini, ne conosco un altro, Angelo Benvenu, che è un amico carissimo, che dice sempre: io sono sicuro che il mondo si salverà per merito di una donna, proprio per questa istinto di gentilezza, di accudire, di proteggere. Quindi, tornando al punto, stiamo facendo proprio degli studi su questo, stiamo cercando di divulgare proprio l'esistenza di queste culture, perché esistono, nessuno ne parla, ma esistono. Abbiamo invitato anche ai convegni che abbiamo fatto delle esponenti di queste culture, che noi, e non solo noi, insomma, le definiamo appunto matriarcali, proprio perché si fondano sulla centralità della dei donna, valori materni, sì, di cura, che le donne portano nella società. E sono, la cosa interessante è che sono valori a cui vengono educati anche gli uomini sin da bambini, e chiaramente la società poi cambia, quindi, vedi, c'è, quindi una la normalità nell'educazione, la normalità non è il dominio, non è la gerarchia, ma perché è un modello, no, soltanto culturale, prevalentemente maschile. Invece nelle società matriarcali, dove ci sono questi principi, dice più amore, compassione, comprensione, sì, c'è una visione ciclica, un po', a me piace chiamarla una cultura del ventre materno, no? Che contiene in sé tutti gli elementi. E questo quindi per dire anche che quando l'asse uomo-donna non viene inclinato, quindi non si educa al sessismo, non si educa alla sopraffazione, allora davvero possiamo giungere a una cultura di pace. E con la sopraffazione non intendo solo quindi la legge del più forte applicata alle società umane, ma anche al rapporto che si instaura tra l'umanità e gli animali, la natura in tutte le sue forme. Infatti gli animali è questo che hanno insegnato a me e che continuano ad insegnarlo tanta gente che ha orecchi e cuore per ascoltare. Certo. Perché lo sciamanesimo si rivolge tantissimo agli animali, tra l'altro, no? Sì, certo. Cioè ci sono gli animali totem, gli spiriti guida, gli spiriti alleati che vanno a forma di animali, cioè spiegaci un po' meglio. Allora, partiamo anche dal fatto che c'è un mondo che viene percepito come sacro, quindi una natura che viene percepita come madre. E poi, aprendo una piccola parentesi, diciamo che lo sciamanesimo non è una religione, cioè non crea le istituzioni, non ci sono delle verità assolute che vengono fondate su una rivelazione, però sinteticamente possiamo vederla come una visione del mondo in cui ogni cosa è interconnessa e viva e può comunicare con noi se impariamo ad usare la nostra mente, il nostro corpo, quindi in una certa maniera. Quindi in questa particolare connessione che possiamo creare con la natura che abbiamo intorno, gli animali sono visti come delle porte, cioè delle porte che ci conducono sia verso gli strati più profondi di noi, ma sia anche verso quella trama, come dire, cosmica di cui facciamo parte, che normalmente non siamo abituati a percepire nella dimensione ordinaria. Allora, noi dobbiamo e chiudere, quindi, ma io quindi? Abbiamo? No, e quindi appunto nella visione sciamanica possiamo entrare in contatto con gli animali sia nella visione come protettori, guardiani, messaggeri, sono come dei ponti verso i mondi che noi normalmente non percepiamo. Sì. Bellissimo, guarda, sono felice di averti conosciuto in questa occasione e non è ti detto che ti ricoinvolgeremo intervista. Sicuramente. Intanto ma anche poi mi piacerebbe conoscerti personalmente. Benissimo, certo, volentierissimo. Grazie alla dottoressa Morena Luciani, e a presto. A presto, ciao Morena, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Bellissima sta musichetta. Vi ho sorpreso con effetti speciali. Allora, si parla tanto di linguaggio del corpo. È una cosa che mi ha colpito quando io e te ci siamo conosciuti, Angelo. Yes. Sembrava veramente che mi leggessi dentro. Mm-hmm. Le prime volte che ci dovevamo conoscere. Poi la malattia è passata. Ed è... sono guarita, ora riesco a non farti capire che cosa c'è dentro. Se ti o sarà tu sembrato, sei distratto. Vabbè. Dice, come soliti idioti, che io adoro. Allora, sono importanti, giusto, i movimenti che facciamo? Abbiamo già detto una volta, più di una volta, che noi esseri umani comunichiamo solo per il 7% a parole. Mm-hmm. Il 93% è linguaggio paraverbale, cioè il timbri della voce. Esatto. e i movimenti del corpo. Però guarda, ecco, la cosa importante da capire qui è che non soltanto il corpo è importante per il linguaggio con gli altri, ma è anche importante come forma di linguaggio per se stessi. E quindi abbiamo in linea la dottoressa Tiziana Franceschini, che è psicoterapeuta esperta in tecniche corporee, che ci darà una mano su questo. Tiziana, sei in linea? Però buongiorno Tiziana. Ciao Angelo, buongiorno. Ciao Tiziana. Allora, qui Rosita devi sapere che di questo argomento è appassionata. Sì. Dal momento che sappiamo che tu tieni lezioni addirittura anche per gli educatori cinofili su questo rapporto con il corpo e via dicendo. Quindi la prima domanda che noi vogliamo farti è questa: perché le relazioni con gli altri hanno bisogno di un buon rapporto con il proprio corpo? Cioè, perché io per comunicare con gli altri è meglio se ho un buon rapporto con il mio stesso corpo? Perché per comunicare con gli altri abbiamo bisogno di entrare in ascolto. Uh-huh. E l'ascolto passa attraverso l'ascolto di noi, questa diciamo che è la prima tappa. E quindi ascoltarci significa prestare attenzione al corpo? Ai nostri bisogni? Sì, perché quello che possiamo, se noi vogliamo creare uno stato diciamo di ascolto e di connessione emotiva, non possiamo bypassare il corpo, perché diciamo che il corpo è il portatore di tutte quel grande bagaglio delle emozioni, e senza emozioni noi non riusciamo a relazionarci all'altro. E il corpo non mente, quindi anche se uno volesse razionalmente non farsi mente. Scoprire, il corpo non mente, quindi diventa non riusciamo a gestirle queste cose, no? No, senza un ascolto corporeo non riusciamo. Guarda, quello che un po' la psicologia ci insegna e che a me ha insegnato è che se ci sono delle parti di noi che noi non vogliamo ascoltare, pensate un po' a tutto il discorso che troviamo della rimozione, sì. Queste parti di noi non ascoltate incisano la relazione con l'altro e la distorcono in qualche modo. È certo. Ho capito, quindi diciamo che quella del corpo, cioè l'ascolto delle proprie, perché per ascoltare il proprio corpo significa cosa? Ascoltare le sensazioni, avere una certa postura, cioè come lo si può tradurre? Guarda, ascoltare il corpo significa ascoltare fondamentalmente le proprie emozioni. Uh-huh. Però diciamo che noi siamo molto poco abituati a fare questo lavoro, perché uh-huh. viviamo in parte in una cultura che enfatizza la mente. Certo. Sì. E in parte diciamo che abbiamo imparato che se le emozioni negative non ci piacciono, e diciamoci la verità, non piacciono a nessuno, sì. quello che noi facciamo è attuare proprio un distacco dal corpo, realizziamo una desensibilizzazione. Ah, vedi, questo è interessante. Quindi col tempo, se questa difesa va avanti, noi ci allontaniamo dal corpo. Però comunque il corpo a un certo punto ci presenta il conto, mi stai anche dicendo, giusto? Ah sì, sicuro. Ecco. Sicuro, guarda, pensa a tutte le malattie, a quanti segnali il corpo ci ha inviato che noi non abbiamo ascoltato. Certo. Ma questa per me è una cosa molto interessante, perché sai, molte volte io ho visto corsi anche per i cani svolgersi con una struttura del genere. Allora, concettualmente c'è un emittente, c'è un ricevente, c'è un canale, c'è un'interferenza, che sono cose concettuali. Cioè, in questo modo io mi studio un po' la comunicazione. Ma questo è molto molto lontano nella mia esperienza con i cani da saper poi effettivamente comunicare con loro, perché i cani tra di loro a volte sono dei maestri a comunicare, eppure non hanno studiato nulla. A me l'approccio di Tiziana colpisce particolarmente, perché lei, piuttosto che farti studiare, ti prepara ad ascoltare maggiormente il corpo in termini di emozioni e sensazioni. Dove la senti questa emozione? Quindi, in che modo adesso sei seduto, in piedi o ti stai muovendo, giusto? Esattamente. Quello che io provo a insegnare quando lavoro con gli educatori è un lavoro di rieducazione proprio all'ascolto corporeo, e quello che noi possiamo fare è diventare più consapevoli. Ecco, consapevolezza secondo me è un po' la parola chiave. Bene. Pensate per esempio che se noi abbiamo un respiro corto, che non è diafammatico, se abbiamo uno stato di tensione muscolare, fare. Io vivo di respiro corto, di fiato corto, un incubo. Hai una buona paziente. Un incubo. E questo cosa questo cosa mi è venuto adesso? Io basta che lo nomino, mi viene subito il fiato corto. Scusa, mi dicevi quindi? Dicevo che se noi ci poniamo in relazione con l'altro e in particolare con l'animale, con un animale come un cane, e siamo in questo stato, quello che l'animale percepisce è che c'è un pericolo, perché ci sono tutti i segnali di pericolo. Quindi noi non riusciamo a trasmettere fiducia a un animale in questo stato. Appunto, la cosa che mi viene, che mi balza immediatamente all'occhio facendo questi discorsi, è che il regno animale è intanto ovviamente molto più onesto e leale, proprio perché comunica soprattutto con il proprio corpo e quindi lascia vivere le emozioni e venire fuori le emozioni così come vengono, ma che in realtà forse la specie animale che sa meno comunicare, che continua a mentire al prossimo e prima di tutti a se stesso, è l'essere umano. Sono più che mangiugne, diciamo che sono gli schemi della mente. Calcola che la mente funziona con un linguaggio completamente diverso dal corpo, perché il corpo conosce solo il qui ed ora, quindi le sensazioni del momento. Fantastico. Che ci dicono qualcosa su come stiamo, su qual è il nostro adattamento all'ambiente. Quindi, mentre noi uomini abbiamo poi sviluppato con l'evoluzione della specie tutto l'investimento mentale, e la mente non funziona così. La mente si proietta nel futuro, pensate a tutta l'ansia anticipatoria, no, che noi abbiamo, e fa continuamente ragionamenti sul passato che ci servono per prevedere il futuro, però questo chiaramente ci allontana dal presente e ci allontana dalla relazione. Quindi cosa possiamo fare? Mi chiedevo, no, per essere utile a chi ci sta ascoltando, quindi una persona che vuole diventare più consapevole del proprio corpo, cosa deve fare? Dei corsi? Hai dei suggerimenti? Delle letture forse? No, non so. Guarda, quello che possiamo fare ognuno di noi è darci un po' l'obiettivo di osservarci meglio e di stare nelle emozioni, perché noi tendenzialmente fuggiamo da quello che non ci piace. Calcola che anche i miei allievi, una delle prime cose che contattano è proprio lo stato di tensione, un'irrequietezza, un'ansia interna, e quello che scappa è il giudizio della mente che frappone tra noi e questo stato corporeo sincero, come diceva Rosita, una immagine ideale di noi. E questo giudizio ci allontana dal corpo, perché è mentale. E quindi cosa, della mente. Cosa facciamo? Ci mettiamo lì seduti ad ascoltare il nostro corpo? Ci dobbiamo muovere in un certo modo? Cioè, come possiamo recuperarlo, questo rapporto col corpo? Secondo me possiamo recuperarlo creando dei momenti di silenzio della mente, cioè lavorando affinché la mente capisca che è molto importante, ci piace, ci ha aiutato tanto, e però ogni tanto si può anche riposare. Se il brusio della mente, che è veramente un brusio continuo, si acquieta un po', lì può emergere il corpo, può emergere qualcosa di diverso, che normalmente è sopito. Quindi zittire la mente è una cosa che noi dobbiamo riprendere. Senti, guarda, io Tiziana, a parte che non è detto che non ti richiameremo, perché questo, come aveva già preannunciato Angelo, è un argomento che a me piace tantissimo e credo che, vedi, alla fine poi per capire di più una specie diversa dalla nostra come il cane, facciamo veramente del bene a noi stessi e impariamo a riappropriarci della nostra, come si dice, delle nostre origini. Ti ringrazio tanto della telefonata e veramente non è detto che non ti ricoinvolgiamo. Grazie Tiziana Franceschini. Vi volevo ricordare che per i più curiosi potete visitare il canale YouTube o la pagina Facebook Il Corpo in Relazione. Benissimo, Il corpo in relazione. Perfetto. Benissimo. Grazie Tiziana. Grazie Tiziana Franceschini. Grazie. Senti, buona giornata. Grazie. Senti, no, fantastico. Fra l'altro adesso poi volevamo fare anche un'altra telefonata, ma poi ti dirò una cosa sul corpo qui ora, che a me mi è piaciuta tanto. Allora, abbiamo ricevuto una mail che ci ha molto colpito, ecco perché abbiamo chiesto di nuovo l'intervento della nostra cara Barbara Gallicchio. Barbara, ci sei? Sì, sono qua. Ciao Barbara, buongiorno. Allora, Barbara Gallicchio, medico veterinario, e abbiamo una domanda. Abbiamo una mail di una coppia che ha preso un incrocio, un giovane cane di 14 mesi che è un incrocio Amstaff, che dice che praticamente al cagnolino non gli sono scesi tutti e due i testicoli e ha, come ti dicevo, 14 mesi. Loro sono abbastanza preoccupati e indignati, perché loro dicono: noi vorremmo tenere Sonny così esattamente com'è, però ci dicono tutti tutti che i testicoli dove si trovano adesso, se non scendono a causa della temperatura alta, possono far insorgere tumori e cose del genere. Loro sono indignati perché tutti dicono che devono essere castrati, mentre nei bambini che hanno questo stesso problema, che si dice criptorchidismo, esatto, vengono riposizionati. Come stanno le cose con i cani? Allora, è vero che nei bambini i testicoli vengono riposizionati, ma d'altronde nel bambino c'è una portata emotiva e psicologica ed una condizione del genere in cui i testicoli non sono discesi che pretende che si faccia l'impossibile, no? Ci sono delle equip di interventi pediatrici specialiste per questo intervento, che si fa anche in più tappe, mettendo delle protesi per allungare l'arteria, perché purtroppo lì c'è proprio spesso un problema anatomico, cioè il cordone, il funicolo spermatico contiene la vena spermatica, l'arteria spermatica, il dotto deferente, e se l'arteria è corta non ci arriva questo testicolo nello scroto. Quando io porto il testicolo verso lo scroto, un bel momento non ci arrivo, capito? Allora nel cane quello che si fa è la resezione, nel bambino ovviamente no, e si tenta l'impossibile per allungarla, per fare, ecco, capite? Poi ci sono anche le protesi per i bambini, no? Casomai proprio non ci fosse la possibilità. Nel cane, e arriviamo al dunque, l'intervento di riposizionamento è considerato malpractice veterinaria, cioè non si può fare, è deontologicamente scorretto. Non è che non si può fare dal punto di vista chirurgico, si può fare, ma non si può fare dal punto di vista etico, perché si considera una frode. Perché si considera una frode? Perché una volta si faceva questo intervento, ma la gente a cui tu poi ridavi il cane con i testicoli discesi nello scroto, li facevano usare in riproduzione o li usavano loro stessi senza dirlo a nessuno, con il risultato che questa, che è l'anomalia genetica più diffusa fra i cani di razza, già di suo, si è ulteriormente amplificata perché è ereditario. Ecco. E allora, per tagliare la testa al toro, stato fatto proprio il divieto etico di fare l'intervento. Detto ciò, voglio anche precisare che l'intervento non sempre è possibile, perché per l'appunto il funicolo è spesso corto. Sì. Quindi noi, quando all'epoca, all'inizio, si faceva, l'abbiamo visto fare tante volte anche all'università, spesso il testicolo proprio non ci arrivava. Per cui non è che tu puoi diventare matto, fargli fare 37 interventi e lo toglievi e fine lì. È vero che il testicolo ritenuto nell'addome, in quella posizione non consona, va incontro con maggior frequenza a certi tipi di tumori che non sono particolarmente cattivi, hanno una malignità più locale che generale all'inizio. Però ci sono, per cui è vero che questi testicoli nella corso della vita del cane prima o poi andranno tolti. È vero anche che non è affatto necessario farlo a 14 mesi. Quindi si può aspettare un po'. Si può aspettare per la stabilizzazione, però in questo caso il cane deve essere controllato periodicamente con un ecoaddome per controllare i testicoli, perché se è vero che la maggior parte dei tumori testicolari avviene nel cane maturo dopo i 7-8 anni, non puoi mai escludere che gli venga a 2. Quindi possiamo dire a Sonny, possiamo tranquillizzarlo, perché il consiglio che ha avuto dalle persone che ha sentito effettivamente è corretto, no? Da questo punto di vista è corretto. Benissimo. Quindi si rassegnano, perché purtroppo è bilaterale, giusto? Sì. Perché se fosse da una parte sola ne togli uno, ma l'altro no, è bilaterale. Per produrre testosterone. Loro, fidandosi di noi, hanno chiesto a noi aiuto, perché ma dice che addirittura gli avevano detto che era illegale e gli sembrava così strano. Ma ti confesso che anch'io, leggendolo, ho detto figurati. Invece tu sei stata, come al solito, ci hai chiarito sotto tutti i profili. Grazie Barbara. Grazie Barbara Gallicchio. Ciao, un abbraccio. Ciao. Buon proseguimento. Grazie. State ascoltando un programma offerto da... Accanto ad ogni cucciolo felice c'è un amico con la maiuscola, Arcaplanet, www.arcaplanet.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. parliamo di una razza di cane, di una nuova razza di cane, la Kinu Inu. Amore, non sbagliarti, perché se io ti dico poi che cos'è la Kita Inu e dove è stato rappresentato nel cinema, tu ti metti a piangere. No, allora la Kita Inu. Ma ti ricordi che cane è? È quello col film di Richard Gere. Bravissima. Ho capito, non l'ho voluto. A Chico, non l'ho voluto vedere. Mia sorella, vabbè, non dico perché sennò poi sanno tutti i segreti, le parole d'ordine di Rosalinda. La Kita Inu, ci scrivono, i nostri ascoltatori ci scrivono: ciao Rosita e Angelo, complimenti per la trasmissione, vi ascolto con grande piacere e interesse. Io ho una cagnetta di 5 anni, è una Kita Inu, e vorrei chiedere ad Angelo qualche informazione per gestire la sua dominanza, che spesso, nonostante il mio impegno, manifesta. E come posso difenderla e difendermi perché non va d'accordo con gli altri cani e i morsi verso di me? Nel momento in cui vorrebbe aggredire gli altri cani, si impenna come un cavallo e non riesco ancora a trovare una posizione corporea per non farmi morsicchiare. Sto frequentando una buona scuola che tu conosci bene, con un educatore eccezionale, ma mi piacerebbe sentire anche la tua opinione. Ok, finita? Sì, piacere Rosanna, grazie ancora per tutti i consigli. Allora, mia opinione, beh, innanzitutto non possiamo fare un corso, no? Già voglio ribadire, le cose sto per dire devono essere cose generali che possono andare bene a tutti, delle riflessioni, no? Quindi sono contento già che lei stia seguendo così come bisogna fare di fronte ad un'aggressività, è meglio rivolgersi ad un professionista. Detto questo però, innanzitutto noi abbiamo un cane che si impenna e morde anche lei, questa si chiama tecnicamente aggressività rediretta. E poi lei ci parla di dominanza. C'è Rosita che fa fammi perdere il filo, che stiamo parlando di no, avete ragione, che poi dopo voi dovete sapere che Vaira mi dice che sono che lo distraggo. Vai, si sta grattando la testa con una big. Cosa stavo dicendo? Stavi dicendo hai detto il termine tecnico di come significa quando il cane aggredisce il padrone. Lo so. Si impenna. Allora, ma non la deve sapere, la deve spiegare. Allora, dominanza. Vai. Allora, non tutti, quando un cane non va d'accordo con gli altri, perché mi sembra che sia questo il problema, non si tratta sempre di dominanza. La dominanza esiste, voglio ricordare che non è l'unica cosa attorno alla quale far ruotare tutte le nostre considerazioni sul cane, no? Perché c'è chi dice che il cane tira è dominante. Addosso è dominante, non voglio stare da solo è dominante, stare sul letto è dominante, è tutto dominante. Stare non sul è, divano è dominante, non è così, però è evidente che questo è un cane che ha bisogno di, cioè questo è già l'invito, uno potrebbe anche soltanto capire che c'è bisogno che il cane acquisisca delle capacità. Quindi non è soltanto una questione di voglio sottomettere, voglio essere io il dominante. Il cane potrebbe essere non in grado di gestire le proprie emozioni quando vede gli altri cani in determinate situazioni. Sì, voglio ricordare peraltro che la Kita Inu è un cane combattivo, veniva utilizzato tra l'altro nell'antico Giappone come cane da combattimento, figurati, oltre che come cane da caccia. Quindi sono cani che hanno una certa verve, tendenza, no? Hanno una certa tendenza a competere con gli altri cani e via dicendo. Quindi la prima cosa che bisognerà fare in questo caso è insegnare al cane a gestire le proprie emozioni con degli esercizi che sviluppano autoregolazione emotiva. Cioè il cane di fronte a qualcosa che vuole assolutamente fare, dove si agita, deve avere la capacità di portarsi ad essere calmo. E come si fa? Con degli esercizi apposta per questo. Per esempio l'altro giorno parlavamo con Andrea Melpignano dell'attesa, no? Del disc dog. Tu puoi prendere anche un giocattolo come per esempio una pallina, anziché lanciarla immediatamente quando il cane sta saltando addosso, anziché preparare la pappa col cane che salta addosso, tu gliela metti giù, aspetti che il cane si tranquillizzi, si metta seduto per esempio e gliela metti lì. Questo educa il cane ad aspettare, ad attendere, e favorisce uno dei modi in cui si favorisce l'autoregolazione emotiva. L'altra cosa però che è fondamentale è che gli educatori devono lavorare con la chiave scatenante, quindi la presenza per esempio degli altri cani, ad una certa distanza, e la distanza va regolata in base a come risponde questo Kita Inu tenuto al guinzaglio. Cioè quando lui si impenna per esempio è già tardi, è già troppo corta la distanza. La prevenzione, quindi, in poche parole. Non è tanto prevenzione, perché prevenzione significa mi tengo lontano dagli altri, così prevengo il problema. Io invece questo problema devo scatenarlo, ma il cane non è che passa da 0 a 100 in 0 secondi. Esatto, quello che succede è che il cane, man mano che aumenta la distanza, monta questa sua emozione di territorialità e via dicendo, diventa così poi difficile da gestire, quindi parte. Allora io devo lavorare sotto soglia, si dice, cioè il cane deve essere un po' a disagio, deve aver voglia di competere, ma non a quel grande livello lì, così che possa stare a contatto con le proprie emozioni. E in quella situazione lì si muove l'altro cane, ci si sposta, ci si muove, si fa delle cose col cane, così che lui possa acquisire le capacità di gestire. Questa è uno degli esempi, perché ci sono anche le capacità di nell'uso dei segnali di calma, nella comunicazione, che so, la relazione con il proprietario, che dove ci vuole un legame più forte, mm-hmm. dare sicurezza al cane, cioè questa cosa non puoi farla, insomma, mm-hmm. ci sono diverse cose che si devono fare. Insomma, possiamo dire a Rossana che mm-hmm. le abbiamo dato un po' di spunti sui quali ragionare anche probabilmente con la sua educatore. Ma chiunque, ma davvero qua il punto è, non è necessario avere quell'idea di sottomettere il cane quando fa queste cose qua. Il cane deve acquisire delle capacità, questo è il punto. Ed ora me l'ha detto tuo cugino. Allora, tuo cugino, ma sei spaventata, io fufi. Allora, il tuo cugino mi ha detto che quando un cane monta, nel senso vorrebbe fare zoom zoom, anzi fa proprio zoom zoom, con un cane dello stesso sesso, è gay. Ok, allora con tutto il rispetto per i gay, che abbiamo amici anche omosessuali, sono i numeri uno, io ho scritto un libro, grazie a Dio è gay. Esatto, quindi, però insomma uno dice, allora se fa così significa gay, non è assolutamente questo, cioè i cani tra di loro si montano molte volte per controllo, cioè mm-hmm. tu hai presente quando il cane comincia ad andare lì con il muso sul collo e poi lo poggia il muso sul collo invece che toccarlo, mm-hmm. poi si mette dietro e cerca di montare. Ecco, ci sono dei cani, soprattutto per esempio gli adolescenti, mi ricordo Lucky, ma ne ho visti come lui tantissimi. Sicuramente poi più maschi che le femmine. No, arrivano. No, succede anche nelle femmine, questo che ci fa capire anche che per esempio ecco, non è una monta di tipo sessuale spesso, mm-hmm. no? Quindi io mi ricordo, ecco, questi cani di un anno e mezzo circa, che a un certo punto o li montano o ci fanno lite. Mm. Perché devi sapere che a volte come i bonobi. È un comportamento simile. Il bonobo, che questo primate, ogni volta che deve risolvere conflitti fa sesso. Però fa lì sesso. In quel caso fa sesso da solo, fa sesso con un aspetto, cioè come dice, con un altro bonobo dello stesso invece sesso. Invece di utilizzare aggressività fa così. Però in questo caso però dobbiamo dire si che può dire scopa. L'ho detto, vabbè. Ormai l'hai detto, quindi. Vabbè, no, ecco, attenzione però, perché questi cani non vogliono scopare, che questo è il punto, ok? No, cioè, okay. Si montano tra di loro per controllo, perché se tu ti immagini un cane che ha quattro zampe, l'unico modo che ha di dire all'altro fermati a volte è montarlo. Questa cosa succede tra cuccioli, succede tra femmine, succede con la femmina, con il maschio, e quindi non è di tipo sessuale. Bene, indipendentemente che gli animali, che questi cani siano castrati oppure no, quindi. Indipendentemente, sì, assolutamente. Totalmente. A volte succede che i cani castrati abbiano un odore particolare che gli altri maschi li corteggino e vogliono. Perché non riconoscono più, quello castrato non è più riconosciuto come il suo sesso. Ha un odore vero? Strano, perché inibendo la produzione di testosterone, gli ormoni femminili vengono più sentiti a livello olfattivo e quindi tendono ad essere più corteggiati rispetto agli altri. Questo diminuisce le risse. Non è però la castrazione, non è che io voglio dire. Anzi, no, mi raccomando, no. Anzi, non è proprio nel mio stile e nel mio metodo. Il cane ha problemi con gli altri cani, quindi lo vai a castrare. No, anche perché abbiamo parlato con il veterinario Gallicchio, che ha detto che i cani, se non hanno patologie, non devono essere castrati, castrati. A meno che cani dei canili, che in quel caso c'è una motivazione diversa. E con questo, ragazzi, adesso andiamo alla viabilità. Ci dicono di sì, andiamo alla viabilità e ci ritroviamo fra poco. Andiamo, Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ah, mannaggia, io non sono felice oggi. Vabbè, però insomma sono ancora, felice, ancora. Ma sono un pochino malinconica. Però ci abbiamo subito un argomento molto importante di cui parlare. Perché io volevo presentarvi Sergio Barbesta, che è il presidente fondatore di Animals Trust Onlus, che è una petizione di punta che dice Nobody touch the dogs, ed è in linea con noi. Sergio, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Sergio. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti, volevamo parlare con te perché stai facendo un sacco di cose interessanti. Intanto questa la prima petizione Nobody Touch the Dog, ci racconti qualcosa? Sì, beh, io sono partito quasi per gioco perché sono un grande amante dei cani 3 anni fa, esattamente nel luglio del 2012, e ho lanciato questa petizione su una piattaforma internazionale americana che si chiama causes.com. A questo punto, nel giro di qualche mese, ho avuto più di 100.000 firme su questa petizione, che poi è una petizione che noi abbiamo lanciato per bloccare il consumo e il commercio di carne di cane in Cina. Ah, sì, perché ricordiamo che in Cina si mangia tranquillamente carne di cane e di gatto, ma non soltanto si mangia. Il fatto è che questi animali, prima di arrivare lì, purtroppo vengono trattati in modi atroci, sì, ammassati in gabbie dove neanche respirano e via dicendo, giusto? Sì, esatto, vengono trattati in maniera completamente disumana e poi vengono uccisi anche in maniera... In modo molto barbaro. Sì, tipo bastonate, cose... Sì, sì, vengono anche lasciati morire dissanguati, addirittura in alcuni casi vengono anche bolliti vivi. Oh, madonna! È vero, vengono bolliti vivi. Purtroppo è così. Senti, comunque, veramente Gandhi diceva che la civiltà di un popolo si vede da come tratta gli animali. Questo si misura dal modo in cui tratta gli animali. La Cina fa veramente schifo, scusa, però. Sì, non in tutto, c'è da dire questo, perché noi non ci scagliamo contro la Cina in generale, e ci sono solo alcune regioni adesso della Cina dove storicamente esistono queste tradizioni. Ma noi crediamo e siamo convinti che le tradizioni, ormai siamo nel 2015, possano essere certo cambiate. Come molte altre anche nostre italiane, come quelle spagnole, la corrida, vabbè, ce ne sono tantissime. Ma sì, sì, sì. Io leggevo una notizia, anzi Angelo me l'ha fatta vedere, una notizia di questi giorni, che dice: i camion con i cani da macello sono vuoti, nuovo successo degli animalisti cinesi, ti risulta? Sì, ci sono delle organizzazioni in Cina e sono sempre più attive. Infatti ci sono tantissimi attivisti che bloccano addirittura i convogli che trasportano cani vivi, sì, e che vanno ai macelli, ai ristoranti. Ma tra l'altro in quel caso lì sono riusciti a bloccare e a liberare anche gli animali mettendoli in strutture adeguate, perché risultava chi trasportava essere sprovvisto di un certificato di proprietà, quindi questi cani potevano essere stati anche rubati nelle campagne cinesi. Esatto, esatto. Spesso ci sono squadre di veri e propri ladri che vanno nelle grosse città o nei paesi anche di campagna a rubare i cani che sono cani di proprietari, quindi vengono sottratti questi cani e vengono venduti o ai macelli oppure direttamente ai ristoranti che vendono carne di cani. Ma è agghiacciante. Senti, ma e quindi con questa petizione dov'è che ti trovi? No, Sergio sta facendo di tutto pur di aiutarci, anche se in un posto non lo... Senti, cioè, con questa petizione tu che cosa volevi sensibilizzare la gente a far, che cosa questa qui dei cani in Cina? Beh, innanzitutto il risultato che adesso abbiamo a 3 anni di distanza è notevole, perché abbiamo raggiunto quasi 570.000 firme in più di 200 paesi del mondo, e noi chiediamo espressamente che il Mr. Obama e Juncker si facciano tramite nei confronti del governo cinese per far sì che il governo cinese emani una legge a livello nazionale contro il consumo e il commercio di carne di cane. Fantastico. Da lì però tu hai avuto un'altra iniziativa interessantissima. Recentissima iniziativa. Sì, recentissima, perché l'abbiamo lanciata 5 giorni fa. Noi, sul successo di un'altra petizione che abbiamo lanciato 2 anni fa, che si chiama No Safari, e che mira a bloccare tutti i safari di caccia grossa in 7 paesi africani, abbiamo lanciato 5 giorni fa una petizione per chiedere a Apple di cambiare il nome del browser da Safari a Stop Safari Hunting per almeno un periodo di 4 settimane. Questa sarebbe un'operazione per far sì che Apple, che è uno dei marchi più conosciuti Beh, fantastico. Speriamo, che Apple, speriamo che Apple accetti e colga l'occasione, perché sarebbe veramente meraviglioso. Insomma, sarebbe un segnale molto forte di civiltà e di sensibilità verso, insomma, verso tutti. Sì, anche perché noi l'abbiamo lanciata 5 giorni fa, questa petizione, a livello internazionale. Siamo già arrivati a... Come si fa a partecipare alla petizione? 5.000. 5.000 in pochissimi giorni. Sì. Come si fa a partecipare? Basta andare su Facebook o su Google e cercare, meglio su Facebook, perché noi operiamo soprattutto attraverso questo social network, cercare all'interno di Facebook Animals Trust, quindi con la S finale, Animals Trust. Animals Trust, su sì. Facebook, ok. Sì, andate sulla nostra pagina ufficiale, dove ci sono i link a tutte le nostre petizioni. Bene, benissimo. Bene. Nel mondo abbiamo già raggiunto 1.020.000 firme su 14 petizioni internazionali. No, scusami, aspetta, no, questa cosa non mi è chiara. Su che? 1.020.000 firme. Ma sul totale delle petizioni che avete sul fatto? Sul totale delle petizioni, ne abbiamo una anche molto interessante che abbiamo lanciato 3 mesi fa attraverso la nostra ambasciatrice in Spagna per bloccare tutte le corride in Spagna. Ah, fantastico. Non Senti, sapevo di questa petizione, la vado a cercare, la firmo anch'io. Basta ste scusa, volevo dire una parola, ma basta corride, porca miseria. Cioè, sì, uno non può sulla sofferenza dei tori costruire una tradizione. No, ma poi è facile sentirsi forte. Il tore viene drogato, non vede bene, annebbiato, ma sta parte, in condizioni, poi fosse ci sono... anche in piena salute, non posso tollerare che ci sia una tradizione culturale in cui si ammazza il toro per divertimento. Ma va, Sergio, ci sei? Sì, no, ci sono. È partita in pieno. Noi l'abbiamo fatta scrivere dalla nostra ambasciatrice in Spagna, perché lei, vivendo nelle Asturie, ha direttamente il posto della situazione. Ma c'è anche quell'altra usanza che trovo ancora più deplorevole, con quella particolare razza di delfini nel nord Europa che vengono macellati. Ah, sì, nelle isole Faroe. Dovremmo, insomma, vabbè, poi ci mettiamo assieme e facciamo un elenco di tutte le petizioni. No, noi a proposito di delfini abbiamo anche una petizione ormai abbastanza storica, che è If you kill a delphin, you kill one of us, per bloccare la caccia e l'uccisione dei delfini nella baia di Taiji in Giappone. Figurati. Senti, Sergio, grazie, che dire, adesso vediamo tutte queste petizioni e poi noi ci teniamo aggiornati per altri progetti. Sì, grazie Sergio. Grazie Sergio Barbesta. Per firmarle e condividerle soprattutto. Beh, volentieri, sicuramente. Grazie mille. Grazie Sergio Barbesta. Ciao Sergio, buona giornata. Trust. Ciao. Grazie, buona giornata. Ciao. Allora, Animals Trust Animals su Trust. Facebook, lì trovate tutte le petizioni che propone Sergio. Caspita, hai visto quanti... Assolutamente. C'è una cosa che voglio dirti, che dice tuo cugino, e cioè che l'uomo è l'animale più evoluto. Ma non mi sembra, sentite queste cose. Vedi? Perché anche il senso logico ti dice che non certo. È vero. L'uomo è l'animale più stronzo, e con questo noi siamo arrivati a questa 10ª puntata. No, aspetta un attimo, perché qua, cioè, quanto tempo abbiamo ancora? Dimmi, abbiamo qui. Allora, che cosa ridi? Ovviamente. Mi faccio prendere. Ah, me l'ha detto mio, è una cosa seria, cioè sì. Non è soltanto il che senso comune. Tuo no, questa no. Cosa che l'uomo è l'animale più evoluto. Sì. Quindi leggo su Focus: uno scimmione che cammina piegato in avanti, sfiorando il terreno con le nocche delle dita. Poi un altro, un terzo e un quarto, sempre più ritti sulla schiena, sempre più glabri e aitanti. Camminano in fila verso destra, verso il futuro, e seguono un tizio che scimmione non è, anzi, sembra piuttosto un fotomodello. Ma è l'uomo, l'acme dell'evoluzione naturale. Quante volte abbiamo visto questa immagine? Troppe, perché non è vera. Il mito di una marcia inesorabile verso l'ultima perfezione della natura, che con poca modestia abbiamo deciso di essere rappresentata da noi stessi, è durissimo a morire. Lo mise su carta l'illustratore Rudolf Franz Zallinger nel 65 in un volume sull'evoluzione, ma non è vero. Time dice è sbagliato per molti motivi. Approfondite questa cosa qua. L'uomo sì, non no, è l'animale più evoluto. Arrivavamo a Natale veramente. Ma dai, che era un'informazione bella. No, vabbè. bellissima. Triste che abbia finito qua, insomma. Esatto, cosa dobbiamo fare? Ti allora, mancherò? Mi mancherai, ma tanto adesso finiamo la puntata, ci andiamo a casa, ci facciamo... Io voglio salutare, guarda, Radio 24 ci ha dato la possibilità qui Sandra di parlare. Sandra e Sbirulino vi salutano. Vi salutano, ma qui Radio 24 ci ha dato la possibilità di parlare di animali un'ora a settimana e io sono felicissimo. Ringrazio Guido Scotti che ci ha aiutato in questa avventura. Grazie in regia a Gala. Oggi c'è Grazia Gala e Andrea Roccabella, beh. Sei romagnolo, beh? No, non è. Mi sembra romagnolo, Andrea Roccabella. E ci siamo divertiti, è stata grazie, un'avventura ragazzi, bellissima. È stato meraviglioso. Non è detto che non ci ritroverete su questi schermi. No, e non l'ho detto a caso schermi. Ciao Rosita. Ciao, mi raccomando, abbiate veramente rispetto delle altre forme di vita che sono esattamente come noi. Ciao. Ciao a tutti, chiedimi se sono felice. Rosita Centani, Angelo Vaira.